Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Eccoci qua alle 10:07 minuti, buona domenica, come sempre da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero. E oggi, visto le notizie di tutta la settimana, ma che vanno avanti, ormai tutto scende, niente più sale o comunque tutto a fatica, non ci resta che ridere, questo parafrasando tra l'altro un film e chiaramente dicendo il verbo opposto. Oggi voglio ridere con voi, voglio cercare di farlo, di capire un po' anche quali sono i meccanismi della risata che immagino ci possono aiutare anche ad andare avanti tutti i giorni e sempre meglio. Come al solito però anche oggi ci sarà il mistero in 24 minuti alle 11:30, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it e come sempre dovete riuscire ad arrivare alla soluzione del mistero ascoltando i nostri indizi musicali. La soluzione può essere una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Ed ecco il primo indizio. Il numero verde per prenotarsi 800 24 00 24, e siccome oggi parleremo di risate potete anche scrivere le vostre battute, perché no, magari scoprite di avere un'anima da battutisti e cambiare completamente il vostro mestiere, cominciare a fare questo o cominciare a fare i comici, anche se oggi devo dire che troppe persone vorrebbero fare i comici perché pensano magari che sia una vita facile, si va in televisione, si diventa popolari e si diventa ricchi, ma non è così. Vedremo come funziona. I vostri sms 349-238-6666. E adesso ridiamo. Mancano un po', devo dire, di rotta su Cuba, questa è ridere, ormai gli anni sono passati anche per loro, però si sono sciolti purtroppo, ma ridiamo, non di questo, ma andiamo avanti con gli ospiti. Innanzitutto do il benvenuto a Cesare Gallarini, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, il cognome è identico semplicemente perché è mio fratello. Ecco, e... ha già fatto queste cose qua un po', fratelli in radio. Esatto, cioè, sai, quelle cose in famiglia. Del resto io ho chiamato Cesare semplicemente perché io respiro il mondo della comicità da più di 30 anni. Cesare si occupa di comicità, vorrei dire da sempre, perché forse hai iniziato, sì, come si comincia prestissimo. Subito, non ho urlato quando sono nato, ho riso. Ecco, che forse è la cosa più bella, in effetti, non so la mamma ovviamente, perché in quel momento è un po' più difficile. Dopo devo dire che ha riso. E, comunque sia, Cesare Gallarini è comico, autore comico, perché c'è l'autore e l'autore comico, sì, perché anche un comico scrive non necessariamente cose comiche. C'è anche comici che non scrivono nulla. Sono gli autori che scrivono per i comici. E però poi sono i comici a diventare famosi. Certo, chiaramente, questo è il bello. Certo. È regista, è stato anche co-regista di tanti comici, sì, e regista di comici, sì, di spettacoli. Poi magari facciamo anche, vuoi dirne qualcuno? No, non importa. E ha anche fondato l'Accademia del Comico. Quindi voglio dire, ecco, sei titolato, credo. Anche sottotitolato. Abbiamo anche dei comici tra gli ascoltatori, perché di Milano, come battuta, scrive Mario Monti, temo nessuno dei due. Mario Monti? Mario Monti, è un gioco di parole molto bello. Mario molto, o Monti, certo. Temo nessuno dei due. Temo nessuno dei due. E mi piace molto. Io vorrei anche presentare uno degli altri ospiti di oggi, che è Francesco Alò. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, Francesco è critico per il Messaggero e Rolling Stone, è autore anche di una monografia uscita qualche anno fa sui Monty Python, la storia degli spettacoli film, ma è uscito una nuova biografia dei Monty Python, edita da Sagoma Editore, e tu ne hai scritto la prefazione, Francesco, giocando fra l'altro con un gioco di parole sul titolo di uno dei loro film. La tua si intitola "E ora qualcosa di completamente uguale, anche se profondamente diverso", perché un'altra biografia dei Monty Python. Francesco, perché? Beh, prima di tutto, guarda Stefano, anche Cesare lo saprà, non è, per l'Italia non è un'altra, nel senso che noi siamo stati colpevolmente, a livello di analisti della comicità, critici, storici, siamo stati molto lontani dai Monty Python, molto lontani, troppo lontani, li abbiamo scoperti tardissimo. Considera che il mio orribile libro, uscito nel 2004, fu la prima monografia ufficiale sui Monty Python in Italia, una vergogna assoluta, loro nacquero nel 1969, quindi per l'Italia è sempre una cosa molto fresca, per il mondo anglosassone no, però nel 2004, quando uscì il mio orribile libello in Italia, uscì questo capolavoro nel mondo anglosassone, firmato da Bob McCabe, che raccoglieva le ultime, direi, estenuanti e anche estenuate testimonianze dei cinque Monty Python sopravvissuti su tutta l'epopea comica esistenziale che fu questo meraviglioso progetto. Ecco, quindi adesso vedremo di raccontarlo un pochino questo progetto, e vorrei dire delle cose che ci riportano ai Monty Python anche oggi senza che noi ce ne si renda conto. Tra poco capirete di cosa sto parlando, prima gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Oggi è ridere l'argomento del riposo del guerriero. In questo momento stiamo parlando dei Monty Python con Francesco Dalò, che ha scritto la prefazione all'ultima biografia appena uscita, edita da Sagoma Editore, l'autobiografia dei Monty Python. Francesco, prima di farti iniziare, io vorrei così ricordare agli ascoltatori questa chicca che arriva da Il senso della vita. Sì? È venuto per la siepe? Senta, sono davvero spiacente. Io sono il tristo mietitore. Chi? Il tristo mietitore. Sì, capisco. Io sono la morte. Sì, beh, il fatto è che abbiamo degli ospiti americani a cena stasera. E chi non è, credo, caro? Che sia... Pare sia un certo signor la morte venuto per la mietitura. Non credo che ci serva per il momento. Salve! Vengono a lasciare fuori dalla porta, caro, falla accomodare. Tesoro, non credo che sia il momento. Oh, adatto. Venga dentro, si accomodi, entri pure a bere qualcosa, su, avanti! Avete riconosciuto che forse la voce di lei non era proprio femminile, era più maschile, perché loro interpretavano in questo film anche i ruoli femminili. Francesco, adesso la voce è tua, però. Sono una donna anch'io. Diciamo che questo è il grande paradosso, no? Perché tu hai mandato un pezzo memorabile della loro, del loro ultimo film. Sì. Che poi è quello che è penetrato di più in Italia, perché io da piccolo lo cominciai a vedere su Italia 1, era il 1982... E loro avevano già finito, avevano finito, ma cominciavano paradossalmente a essere leggermente fruiti in Italia, e questo era la morte che va a visitare un gruppo di borghesi inglesi e americani. Peraltro c'è in quella gag c'è la contrapposizione Inghilterra-America, che poi John Cleese sfrutterà benissimo in Un pesce di nome Van. Infatti, perché poi insomma loro come sono divisi, poi comunque hanno continuato il loro mestiere, ci sono dei film che sono stati fatti da loro, uno di questi appunto Un pesce di nome Van. Francesco, perché i Monty Python hanno un po' cambiato la comicità come i Beatles forse hanno cambiato la musica, ecco, di quegli anni? Perché hanno fatto, prima di tutto hanno sposato le arti grafiche, come mai nessun gruppo comico, pensa ai fratelli Marx, hanno i fratelli Marx venivano dal teatro, i Monty Python vengono invece proprio dall'animazione, dalla pubblicità e dal cinema, e lì andranno. E quindi nel 69 cominciano a fondere molto bene le arti visive, cosa che nessuno appunto aveva fatto, come facevano un po' le avanguardie storiche, come facevano i dadaisti, come facevano i surrealisti, e poi fanno quello che, per cui è forse è più facile ricordarli, cioè sono i primi a mischiare non solo la cultura altissima con la comicità, questo già Woody Allen lo faceva in America, ma soprattutto a mischiare sangue e violenza a comicità. E questi sono stati i primi. 1974, Monty Python and the Holy Grail, da lì i Simpson, South Park, Sacha Baron Cohen, tutto, i soliti idioti, tutto nasce da lì. Ecco, noi quindi ci portiamo dietro ancora loro, magari senza saperlo, perché ho scoperto che insomma un po' le generazioni che oggi hanno 20-25 anni, Monty Python proprio non sanno chi siano, senza magari sapere che la parola spam, che noi usiamo quotidianamente per dire per parlare della posta, delle email che invadono appunto le nostre caselle di posta elettroniche, spam arriva proprio da una gag vecchia dei Monty Python, se non mi sbaglio, perché spam era la carne in scatola che veniva proposta continuamente in un menu durante una delle loro gag, il Flying Circus. Mangi la spam, abbiamo solo la spam, è questo cliente esatto. Che non poteva prendere altro, peraltro John Belushi e Dan Aykroyd, che adoravano i Monty Python, e che il Saturday Night Live nasce nasce copiando il Flying Circus di Monty Python, perché il produttore Lord Michaels andava a vedere in Inghilterra questo, quello che questi sei pazzi facevano per la BBC, tornò in America dicendo ok, la faccio anche io, una trasmissione comica così folle, e fece il Saturday, e Dan Aykroyd e John Belushi proprio fecero un omaggio col cheeseburger al posto della Spam, che è uno sketch storico del Saturday, meraviglioso. Ma pensa, Stefano, gli ascoltatori devono anche sapere che Pythonesque, quindi Pythonesco, l'aggettivo da Monty Python, è nei vocabolari della lingua inglese, come felliniano è nei nostri vocabolari. Certo. Io dico che un artista, quando entra nella lingua di un paese, ha fatto bingo. Sono assolutamente concorde con te. E senti, per chiudere, Francesco, tu che cosa consigli a chi non conoscesse i Monty Python? Cosa consigli di vedere per capire un po' quest'anima, insomma, capire da dove arriviamo dal punto di vista della comicità? È uscita in Italia, edito il pacchetto DVD, che penso possa far passare dei momenti meravigliosi, soprattutto magari nelle iniziali vacanze, che stanno arrivando le vacanze di Natale, tutto il Flying Circus. Che cos'è? Questa trasmissione che loro fecero dal 69 al 74, dove c'è del materiale incredibile, Stefano, che è ancora il futuro della comicità, perché questi sono i Monty Python, non sono stati ancora raggiunti da nessuno in alcune delle loro cose. E quindi 45 puntate di 30 minuti l'una, ecco dove nascono i Monty Python. Da lì nasce il nome, da lì nascono i personaggi, lì nasce la comicità, e poi ci sono i quattro film, che se uno li vuole vedere, però soprattutto il Flying Circus. Ecco, bene, grazie Francesco. Poi chi volesse approfondire, appunto, c'è l'autobiografia dei Monty Python appena uscita, ma c'è anche quella di Francesco, che ha scritto la loro storia. Grazie Francesco Lotti, lascio con una battuta di un ascoltatore che ha scritto Mario Monty Python. Ecco, forse vorrebbe un po' di anche sorriso quello. In più, c'è anche questo. Grazie, ciao Francesco, buongiorno. Ciao a tutti, ciao, buona domenica. Ciao. Allora Cesare, qualche giorno fa, una signora parlava con me dei comici, degli artisti, come se fossero un po' dei guitti, quasi un po' ignoranti. Ecco, in realtà non è così, anzi Monty Python hanno studiato a Oxford, a Cambridge, uno solo è americano, gli altri sono inglesi. E la cultura, quindi, quanto è importante? La cultura è importantissima. Io cito sempre un grande comico italiano, credo che sia Antonio Albanese, ma come lui ce ne sono tantissimi, che la provenienza è una provenienza di scuola di teatro, di anni di scuola di teatro, di accademia, di studio, di lavoro, di conoscenza. Dobbiamo in qualche modo ogni giorno scoprire tutto quello che ci sta attorno e conoscerlo, in qualche modo cercare di conoscerlo, sennò da dove arriverebbero i testi, da dove arriverebbero le battute, dove arriverebbero le gag comiche se non avessimo il materiale. Cos'è il materiale? Tutto quello che ogni giorno ci circonda. Ecco, secondo te è più forte un comico che si scrive le battute da solo o un comico che invece se ne fa scrivere le battute? Questa è una grande domanda. Allora, il comico, poi chiaramente c'è una divisione tra comico e cabarettista, perché poi in Italia c'è questa figura del cabarettista televisivo, diciamo che all'inizio la tua carriera dovresti scrivere te i testi, quindi tu sei una totale autoproduzione, quindi fai il comico, fai il regista, fai l'autore, metti le luci e porti il tuo microfonino da casa e lo attacchi al mixer. Quindi devi avere questo bagaglio di conoscenza, visto che parliamo di quello, alla base. E sicuramente scrivendo te le battute sono tue, sono personali, rientrano nel tuo modo di vedere il mondo, nel tuo modo di essere, quindi riesci ad avere una comicità sicuramente personale e non copi altre situazioni. Ci sono comici che poi in una seconda fase, quando magari c'è un'esigenza televisiva molto forte o cinematografica, ora si fanno anche scrivere i testi. Ecco, anche perché non è affatto facile scrivere un testo. Anche perché ci sono molti autori che scrivono soltanto per alcuni comici. Cioè, ecco, proprio di questo volevo parlare, anche della sintonia che si deve creare comunque fra l'autore e il comico, altrimenti penso che le battute non assolutamente funzionino. Tu devi conoscere perfettamente il comico, il suo modo di lavorare. Quando ho avuto la fortuna di lavorare sia con Aldo Giovanni Giacomo sia con i Fichi d'India, e sono due mondi completamente differenti, con due tecniche di comicità, due modi di porgere la comicità completamente differenti. Ecco, poi come ti avvicini a un comico? all'inizio? Beh, piano piano, dipende innanzitutto, mi avvicino di lato. No, beh, innanzutto mi deve divertire. A te per primo. A me per primo, certo. Quindi se mi diverte, devo essere un pizzico invidioso di questo comico, dire, ah bello, guarda come... Avrei voluto farlo io questa battuta. E poi a quel punto si inizia a lavorare assieme. E la produzione è molto naif, molto estemporanea, ci si mette lì veramente interi pomeriggi, si iniziano a sparare stupidate o quelle che qualcuno definisce stupidate, e poi da queste stupidate chiaramente si va a creare un canovaccio, e dal canovaccio un testo. Ci sono state, questo non lo so neanch'io, attenzione, adesso faccio una domanda a mio fratello che in realtà non gli ho mai fatto nella mia vita, ma adesso la quale non saprò rispondere. No, saprai rispondere se vuoi rispondere, ovviamente. La domanda è: hai mai pensato a una battuta per te talmente bella che non hai voluto regalare ad altri? E quindi non gli hai detto, sì, mi è venuta in mente, ma non gliela dico, se no mi frega, non voglio tenere. No, più che una battuta, magari ad una situazione. Una situazione che ho detto, molto bella, questa potrebbe farlo questo comico, no, però la tengo io e la faccio io. Sulla battuta, magari, anche qui poi apriamo un grande librone, magari le abbiamo usate tutte e due, quindi la battuta l'ho data a un comico, ma nello stesso tempo, guarda che la userò anch'io nel mio spettacolo. Ecco, insomma. E poi chiaramente dice, guarda, dico, quello ha copiato, certo. Come questo, però il 90% delle battute sono copiate, poi esistono dei modi diversi per dirle. Questo vale per molti, per molti aspetti del mondo artistico, ma intanto ho scoperto di avere degli ascoltatori comici, e perfetto. Questo ci fa assolutamente piacere. Il numero per i messaggi 349-238-6666, Filippo per esempio, che scrive: buongiorno, temo che oggi la trasmissione non arriverà al termine, non a caso si dice quando ci sono troppi gallerini a parlare non si fa mai mezzogiorno. Ecco, eccolo questo, qua, ecco. Bene, bravo. Dire sì. Gino, buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao. Gino di buongiorno. Gino Michele, anche perché voi vivete in coppia, siete inseparabili, siete una coppia di fatto ormai, no? Gino? Sì, una volta uno ha telefonato a casa mia e ha detto, pronto, casa Gino e Michele. Scusa, rido, perché io sono stato direttore di varie riviste di videogiochi e la gente cercava nell'elenco del telefono il mio nome col cognome e il titolo della rivista, quindi ecco. Stefano Zapp, hai capito? Così. Fare un esempio, ecco, ovviamente. Perché succede, ti capisco. Succede. Gino, voi che avete creato Zelig, ci racconti un po' la storia di com'è nato? Anzi no, preparati a raccontarcela, perché c'è il pre-pubblicitario e poi cominciamo da lì, perché forse dobbiamo cominciare da lì per capire oggi dove siamo arrivati. Il riposo del guerriero. Prima di riprendere la conversazione con Gino, di Gino e Michele, volevo rispondere a uno dei messaggi che citava Brian di Nazareth, un film di Monty Python che il nostro ascoltatore ha in VHS, si trova anche in DVD, sì. E devo dire che in Italia così arrivò molto tardi, perché avendo l'associazione con Cristo, insomma fu molto boicottato. Abbastanza boicottato. Decisamente. Gino, allora scusami, ti abbiamo lasciato lì all'inizio, a Zelig, quando avete pensato a che cosa? Cosa che vi siete alzati un mattino e avete detto, ma facciamo cosa? Ci siamo alzati un mattino e abbiamo detto, cosa possiamo fare per pagare i conti? Eccolo, quelli lei. Che ci portavano la birra, il prosciutto, e pagare la mensilità ai camerieri. In realtà Zelig è nato effettivamente per questo, cioè non c'era dietro francamente un progetto di fare una grande trasmissione televisiva, c'era dietro semplicemente l'esigenza di continuare a tenere aperto un locale che era appunto il cabaret Zelig di Viale Monza 140, che aveva un sacco di problemi finanziari, insomma, perché il locale era piccolo, perché era ai confini con Sesto San Giovanni, per cui sì, si faceva il tutto esaurito magari il sabato sera, però il martedì, il mercoledì, il giovedì non veniva nessuno, eppure ci rendevamo conto che era un posto indispensabile per innanzitutto per diciamo così la comicità, cioè quel mondo all'interno del quale ci muovevamo, e dall'altro anche per una città come Milano, che aveva una ricchissima tradizione da questo punto di vista. Basti pensare al Derby, al Nebbias Club, eccetera. E quindi abbiamo cominciato ad andare in giro per le televisioni, diciamo così, a provare a vendere una più che una trasmissione, una ripresa televisiva di una serata di cabaret, sapendo che in Italia c'erano pochissimi cabaret e che quindi fuori da Milano, magari tutti ne avevano sentito parlare, ma pochissimi avevano avuto l'occasione di assistere a una serata di cabaret. Andavamo in giro a proporre questa trasmissione e abbiamo brigato molto, insomma, cioè molti ci dicevano sì, è una bella idea, però questa qui non è televisione, questa qui è ripresa televisiva di un evento come una partita di calcio, come un concerto, e quindi non ci interessa. Finché alla fine siamo riusciti in maniera molto sperimentale, molto di nicchia, cioè andavamo il primo anno siamo andati intorno a mezzanotte, insomma molto così con questa si sperimenta sempre in terza serata, è tutto esatto. Si sperimenta in terza serata, che poi tra l'altro è una serata particolarmente seguita, la terza, cioè secondo me comunque sì, una volta in particolare, insomma, poi una volta si facevano anche questo tipo di cose, ormai devo dire che le televisioni generaliste hanno un po' perso questa vocazione a sperimentare, a cercare nuovi sbocchi creativi, insomma. Ecco, com'è, Gino, proprio com'è cambiata quindi la comicità da quando, parliamo di Zeric ormai in TV, perché poi a un certo punto appunto è diventato anche quello Zeric, tant'è vero che ormai è un modo di dire, perché si dice Zeric per le qualunque trasmissione televisiva che riguardi il cabaret e qualunque cabaret, ormai si fa un calderone con un termine solo, e questo ovviamente è un grande successo. Com'è cambiata la comicità televisiva da quando avete iniziato a oggi? Perché credo che sia molto cambiata. Beh, sì e no. Credo, appunto, magari no. Nel senso che la comicità televisiva è sempre legata ai talenti televisivi, cioè ai comici che si riescono a trovare e che decidono di fare questo mestiere. Quindi è vero che c'è una porzione di offerta di comicità televisiva che è legata da un lato alle mode del momento o ai punti di riferimento del momento, dall'altro a esigenze di trasmissione televisiva, cioè noi non neghiamo che per fare Zeric utilizziamo una serie di comici, diciamo così, che sono funzionali alla trasmissione ma che oggettivamente non sono dei grandi talenti dal punto di vista appunto dell'arte del comico, però ci servono per confezionare una trasmissione che non sia soltanto una rassegna di grandi comici, perché cioè deve funzionare come trasmissione, ecco. Esatto. Quello che hai detto prima l'hai detto o l'hai pensato, come dice Homer Simpson, l'hai detto e non l'hai pensato? Adesso no perché farà piacere a molti comici in generale che magari non riescono ad arrivare a Zeric e che però sono bravi in scena, sì, per esempio potranno rilassarsi dopo questa tua frase, Gino. Sì. Tantissimi comici, ecco, allora ho capito perché c'è quello lì in trasmissione. Attenzione, io non no. È una giustificazione questa, perché ci sono anche certo. Però esiste anche questa realtà, perché insomma. È vero che noi conserviamo questa matrice di di vetrina di grandi talenti del comico, però come ho detto prima è chiaro che ci rendiamo conto che è una trasmissione televisiva e quindi non possiamo semplicemente fare la ripresa televisiva di un'ora e mezza, no, è con chiaro, bisogna 3-4 certo. monologhisti, insomma, no, ci sono dei meccanismi che vanno ovviamente rispettati. Senti, Gino, per chiudere ti chiedo, ma dove andremo? Dove si sposterà? A cosa ritorneremo magari o cosa vedremo che non abbiamo ancora visto? Nella comicità? Sì, certo, sì. Ma anche lì io torno ai grandi talenti, insomma, noi per parlarci chiaro facciamo la cosa che ci diverte di più nel fare Zeric è dare la possibilità a una serie di comici, soprattutto monologhisti, e quindi quelli che si chiamano gli stand-up comedians, di esibirsi o di fare vedere quello che sanno fare in un ambiente amico, cioè in una situazione che non sia, non lo so, il Festival di Sanremo, buttati lì tra una canzone e l'altra, oppure all'interno di un talk show, eccetera, eccetera, ma in una situazione in cui si trovano a loro agio. Siccome non esistono tanti, anzi non esistono praticamente più di spazi come questi, la nostra come dire, missione con la M minuscola all'interno della televisione è proprio questa, cioè di dare la possibilità ai comici di farsi vedere e di esibirsi cercando di metterli più a loro agio possibile. Dove andremo? Lì dipende dai talenti, insomma. Però no? Siete sempre alla ricerca di quelli, e questo chiaramente non ci fa che piacere. È chiaro che un Checco Zalone ti capita una volta ogni 10 anni, ecco, insomma. Voglio anche ricordare che poi esiste anche, al di là della TV, esiste poi anche invece il luogo il fisico dove ci sono. Questo punto, è importantissimo, cioè il posto dove ci si possa confrontare, ci si possa contaminare, si possano conoscere colleghi, si possa imparare e insegnare, è uno dei principi basilari delle scuole proprio del comico, no? Cioè, come in qualsiasi altro settore o genere della vita, se hai un posto, un'accademia, tra virgolette, in cui sai che andando lì qualche cosa ti rimane, è fondamentale. Grazie Gino, grazie. Grazie a voi. Anche perché, insomma, grazie a voi, ridiamo costantemente. Ciao Gino. Ciao, Gino. Salutaci Michele, ovviamente non si può non dire questo. Certo. Senti, quando tu ti sei esibito per la prima volta a Zeli, sì, parliamo del locale, sì. Qual è stata l'ansia più grande, che se ce l'avevi magari? Ma non ce l'avevi, allora io devo dire, devo fare una citazione, lo studio della radio è di fronte ad un locale storico per il cabaret italiano, che è il Derby Club, vedo ancora l'insegna, sì, quindi, grazie al cielo l'insegna è rimasta, io vorrei metterla anche a posto quindi in quegli anni, e siamo a metà degli anni 80, chiude il Derby e apre Zelig, quindi il passaggio allora era estremamente emozionante fare cabaret al Derby, perché al Derby sono passati tutti i comici, grandi comici, sì, italiani, da Iannacci, Cocchi Renato, eccetera eccetera eccetera. Quindi passi a Zelig, che allora era, come diceva prima Gino, veramente un bar, un localino dove si giocava a biliardino, dove c'era il flipper e c'era questa stanza che altro non era che il foyer di un teatro, che è l'attuale Zelig di oggi, con 80 posti e non di più, quindi chiaramente. Però Gino diceva sì, durante la settimana era vuoto, sabato e domenica pieno, ed è vero, addirittura il sabato a volte si faceva doppio spettacolo, però c'è da dire che allora cabaret a Milano si faceva tutta la settimana, cioè dal lunedì alla domenica, da qualche parte, da Zelig, in altri locali, c'era un posto dove c'era comicità, c'era cabaret. Oggi questo non esiste più. Io ho un'esperienza tedesca, berlinese, dove attualmente ci sono circa 30 locali di cabaret a Berlino, poi c'è cabaret con la K, il cabaret normale, c'è Carl Valentin, quello storico, però 30 spazi dove i comici possono esibirsi. Milano in questo momento, e non solo Milano, l'Italia in generale, ha un locale che è Zelig. Sì, perché, cioè, in realtà ce ne sono degli altri. Ce ne sono altri, ma non si fa più, basta. Esatto, non, se ne ricordo, c'è, cioè, il locale di Torino, per esempio, il Cap 41, molto bello, certo. Dove si fa molto cabaret, sì, c'è anche un progetto nuovo che sta partendo. Io ho un ospite al telefono che tu conosci, sì, molto bene, Cesare, però prima volevo chiederti una cosa, prima di introdurre, quindi mi scuso se ci sta ascoltando, volevo chiederti una cosa. Hai citato la differenza della parola cabaret, quindi vogliamo spiegare le differenze del cabaret. Noi cosa intendiamo per cabaret? Ecco. Beh, cosa intendiamo? Anche l'ospite poi ce lo può. Per quello io, vedi, prima ti ho anticipato. Bravo. Perché so che. Cosa intendo io? Semplicemente mi rilaccio un po' a quello che ha detto Gino prima. Un attore che va su un palco e racconta una storia, una storia divertente, una storia che ci coinvolga, una storia che in qualche modo ci appartenga. E attraverso la chiave della comicità, della satira o del semplice far ridere, assolutamente. C'è un altro tipo di cabaret che è più serio, per esempio Bertolt Brecht, assolutamente, alcuni suoi testi brechtiani sono considerati, è il famoso cabaret con la K davanti. Un grandissimo italiano che è Dario Fo, a mio avviso, è un grandissimo comico, grandissimo autore, ma a volte è un cabarettista. Tra l'altro riprende Mistero Buffo, tra riprende poco Mistero Buffo, sì. Quindi sono... è questo, non gli diamo questo appellativo, questo gioco, è un attore comico sostanzialmente. Poi per cultura l'Italia ha avuto l'avanspettacolo, ha avuto il varietà, dove la possibilità per i comici era notevole. L'abbiamo un po' perso purtroppo il varietà. Vediamo un po' di chiamare invece il nostro ospite. Piero! non è che si chiami Piera, però devo presentarti così, Stefano. Ciao. Ah, ma ridi da solo, questo ci fa piacere. Buongiorno, ciao. Sì, sì, perché stavo meditando sui mostri che genero e dopo evidentemente è impossibile rammaricarsi di aver inventato, e poi la gente mi strilla così. Per forza di cose. E poi tutti, quando poi chi non mi conosce, quando ha a che fare con me, poi pensa che io debba per forza sempre gridare, aspetta da un minuto all'altro che io urli, invece sono, non dico un motto tranquillo, però insomma sono abbastanza dimesso quando sono nel mio, ecco, diciamo così. Ecco, Stefano Chiodaroli, ovviamente, perché è giusto dire anche il cognome, sennò poi ci confondiamo, ma io non sono certo bravo come Stefano e forse non sono neanche un comico. E tu, insomma, sei uno di quei talenti di cui Gino parlava prima, e però ti cimenti anche in ruoli che non sono propriamente comici, nei film, per esempio, ecco. E sì, perché, qual è l'anima del comico, secondo te? Insomma, la tua anima, qual è? Ma l'anima del comico è... oh, mamma mia. Allora, premessa, a me non piace mai fare delle riflessioni su me stesso, perché qualcuno diceva che quando l'uomo d'azione comincia a fare delle riflessioni su se stesso, vuol dire che è iniziata il periodo della decadenza, in qualche modo. La verità è che, per quanto mi riguarda, fare la comicità è esprimere arbitrariamente quello che mi passa per la testa, ed è sempre stato così, ecco, in qualche modo, più o meno fedelmente. Quando hai capito di avere la vena comica? Ho capito di avere la vena comica quando nel tempo, parliamo di scuole elementari, scuole medie, oratorio, scuole serali, così via, a un certo punto mi pigliava il desiderio e anche la vanità di far ridere le persone, e sentivo che questa cosa era gratificante ed espressiva, insomma, di una cosa che avevo voglia di fare. Ah, quindi insomma è cominciato così, si sente la voglia di far ridere, no? Cioè, un meccanismo, la voglia è anche, è un po' una vocazione, piacere. Ecco, hai avuto anche tu la chiamata, diciamo. Ecco. Sei stato nominato. Sì, però non è così solenne la chiamata, è un'intuizione che poi uno persegue in tante piccole micro scelte di cose che si fanno o non si fanno. Stefano, ti faccio la domanda di solito, ma te la devo fare, perché io so che molti che ci ascoltano in generale, tanti anche giovani soprattutto, così vorrebbero intraprendere la carriera del comico pensando che sia facile, e non è così, almeno per te com'è stato? Beh, confermo che non è facile, perché è che molti si accostano al comico come si accostano al calciatore o al Grande Fratello, perché lo considerano uno strumento per accedere a una mondanità che, sì, non esiste. Che è bravo, ecco, che non c'è, ecco. Infatti. Sì. Dopodiché io ho iniziato a fare il comico in modo professionale nel 99. Nel 99 e ci sono arrivato per gradi, perché ho iniziato facendo, allora faccio una premessa, io vengo dal Varesotto, un'educazione protestante, cattolica, severa, nel senso se sei un uomo di 30 anni probabilmente ti devi fidanzare e devi avere un lavoro, non esistono altre formule, per cui non ero in condizione di pensare farò il comico da grande, dovevo pensare al lavoro serio, tanto per intendersi, sì. Per cui ci sono arrivato per gradi a pensare di fare il comico come mestiere. Ho fatto prima delle clownerie, lavoravo in alcuni gruppi, ci divertivamo, poi siamo stati anche all'estero a fare delle cose, ma una volta che sono arrivato in Italia l'unica forma plausibile per fare comicità era fare il cabaret, che io ho approcciato in modo originale, perché quando ho pensato di scrivere dei monologhi ho detto, beh, adesso io farò delle cose che, per usando il linguaggio comune tra i comici, vanno facendo le cose che fanno gli altri, se no è una gara persa in partenza. E allora ho elaborato un po' il mio stile naif, poi un po' sono stato fortunato, ecco, non è che c'è il momento decisivo, la scelta decisiva. Ecco, la fortuna secondo me è una parola che non bisogna tanto usare, perché in realtà arriva da una serie di cose prima, quindi non è la fortuna ma è la capacità di aver messo insieme degli elementi, e uno fra questi, l'hai citato tu, è quello di cercare di fare una cosa un po' diversa dagli altri e metterci del proprio. Poi sono il talento ce l'ha sicuramente, tutto emerge. Stefano, ti ringrazio e non ti chiamo Piera questa volta, perché tanto l'urlo come il tuo non mi viene. Grazie a voi che mi avete chiamato. Figurati, grazie a te che ci fai ridere. Grazie Stefano, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, buona domenica e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Il riposo del guerriero. E sono comunque stupito, e in modo positivo, degli ascoltatori, perché mi sono reso conto adesso che le battute che stanno scrivendo, sì, sono tutte battute che hanno a che fare con la puntata di oggi, nel senso o con me, con te, giocando che siamo fratelli, esatto, oppure con Mario Monti, perché è il personaggio del momento. Per cui è bello, perché le battute non sono riciclate, sono, nascono proprio in questo momento, e questa è la grandezza, no? Così deve essere. Ce n'è un'altra che è arrivata, che dice, mi fa ridere, ma sei tu o tuo fratello? L'ho chiesto io a uno dei due gemelli che lavorano con me. Questo, infatti avevo questo dubbio, adesso sapranno chi dei due sta parlando. Ma è vero che non sai a quale ti riferisci, certo. Quindi comunque la domanda in sé. Allora, essere comico significa essere comico, nel senso che bisogna proprio avere una vena che o ce l'hai o non ce l'hai. In questo momento hai fatto tre battute una dietro l'altra. Essere comico significa essere comico e già far ridere. Vedi, io lo sono in effetti. Ma sentite un po' come si può leggere un menù. Primi piatti. Rigatoni con pagliato. Lire 7.000. Pasta e fagioli. Lire 5.000. Secondi piatti, rognone trifolato, lire 6.000. Spigola arrosto, secondo quantità. Dessert, frutta fresca di stagione. Torta della nonna, tiramisù. Servizio incluso. In aggiunta al menù, giovedì, gnocchi. Sabato, trippa. Ecco, voglio dire, Gassman, a volte sai che a me pare imiti se stesso. Forse un imitatore di Gassman. Era lui, assolutamente. Era lui. Grande Gassman. Ecco, questo menu, dimostra menu. Come tu puoi raccontare una cosa banale, apparentemente, sì, ma il come la racconti fa cambiare. È la differenza. Quindi tu puoi avere una battuta bellissima, una struttura comica bella, ben congeniale, ma quando non la sai porgere, non la sai far arrivare, non funziona. E tantissimi dicono, ah, però quel comico funziona bene perché ha dei bei testi, indubbiamente il testo aiuta, però ecco, Gassman ci dimostra che si può leggere la guida del telefono e far ridere anche con quella. Perché sono importanti i tempi comici, sono una cosa che si sente, credo, certo, che non c'è, certo, una regola. No, esistono delle regole, ma sono delle regole puramente effimere, delle regole fasulle. Il tempo comico è qualcosa che abbiamo dentro e che ci fa dire quella battuta esattamente in quel momento, e solo così quella battuta funziona. O quella gag è visiva. Adesso, essendo in radio parliamo di voce, però la comicità è soprattutto, è innanzitutto tutto fisica, dopo arriva anche la battuta. Sì, la faccia è fondamentale, infatti far ridere in radio è molto più difficile. Molto, sì, ho tentato di fare il mimo tante volte, ma no, in mai, radio non sei mai riuscito, questa, ovviamente. Questa vecchissima, scontatissima, che però si dice sempre. No, ecco, poi ecco, anche le battute vecchie non esistono, perché come le barzellette sono vecchie per chi non le conosce, sì, poi in realtà sì, sono sì, nuove per chi... Sì, questo lo diceva Bramieri, lui diceva non esiste una battuta vecchia o nuova, esiste una battuta che conosci o che non conosci. Tant'è vero che tantissime, ormai facendo questo lavoro da più di 30 anni, ti posso citare chi prima di quel comico ha detto più o meno la stessa battuta. Ecco, chiede, guardando gli altri comici, sì, lavorare, si imparano i tempi comici? Assolutamente no, è come il senso musicale, che è una cosa che credo è, hai anche, puoi ascoltare tanta musica quanto vuoi, no, ma non riesci, tu non riuscirai mai a intonarti, no, per esempio, ecco, mio fratello è stonato, no, per una campana. Eppure di musica ne ascolta tantissimo, mi piace anche, ne uso tanto, e vabbè, questo è le famosi dote, no, vabbè, ma era per dire. Invece il tempo comico lo si può acquisire, secondo no, te? No, il tempo comico lo puoi migliorare, lo puoi tentare veramente tentare una sera di dire quella battuta con un tempo e la sera dopo con un altro respiro, perché comunque il comico respira, ecco, assieme. Di fronte a chi si tenta, sai, un illusionista prova davanti a uno specchio. Il comico no, perché lo specchio spesso non risponde. Assolutamente, purtroppo il comico ha bisogno sempre di un riferimento, quindi, perché il nostro scopo è scaturire, certo. Fa scaturire la risata, quindi chi ride o il cane. La mamma non va bene, no, perché riderebbe madre, comunque, la generale ride troppo comunque, buona. Esatto. Quindi io in questo momento sto utilizzando tanto mia figlia, chiaramente, perché ha 7 anni, quindi ha un senso dell'umorismo elevatissimo e non contaminato, diciamo, con meno blocchi, e poi le battute le provi in ogni momento. Può capitare veramente di essere sull'autobus e di dire a quello che ti di fianco o di pensare alla battuta e in qualche modo percepire la reazione, quindi hai bisogno sempre di questa reazione, è necessario. Se un comico non facesse e dove ridere, la provi nell'arco della giornata, ovunque, camminando, a me piace. la fai, cioè, dici la battuta, la dici a qualcuno che vedi, conosci, e vedi come reagisce la risposta. È chiaro che devi trovare il contesto giusto, insomma, se sei ad un funerale non è che provi la battuta, però magari qualcosa lo stesso riesci a creare, potrebbe anche essere no, perché avevo visto un ospite, ma la sentiamo dopo, ovviamente, e quindi andiamo avanti a parlare di questo. E il laboratorio del comico, sì, serve provare le battute? Serve. Gino parlava che Zellig è stata e sarà una importantissima pedana per scoprire nuovi talenti. C'è tutta una serie di laboratori in tutta Italia fatti dai locali, quindi sono andati un po' a sostituire quelle che erano le serate classiche di cabaret. Si parlano laboratori perché a Milano nacque lo Scaldasole, che è stato un laboratorio storico, dove i comici lavorano assieme, quindi si trovano 10 comici assieme e iniziano a provare queste battute, dove è dichiarato che il materiale che viene proposto è scritto in quel momento, è realizzato per la prima volta in quel momento, e si vede la reazione del pubblico, quindi si va a capire dove tagliare, dove modificare, dove non funziona o dove invece funziona tantissimo. Ecco, e poi bisogna capire se i laboratori poi funzionano davvero da quel punto di vista, perché forse oggi ce ne sono fin troppi. Ce ne sono tanti, alcuni sono, vabbè, sono un po' farlocchi, però va bene, dai. Accettiamo questa assolutamente sì, meglio troppo che se che niente, questo è vero. E intanto sto leggendo i vostri sms, sono moltissimi, e uno diceva: ma cosa c'era da ridere nel menù di Gassman, semmai c'era da piangere per i prezzi in lire equiparati ovviamente agli euro di oggi. Quindi perché... questa è una battuta. Comunque, appunto, no, voleva esserlo una battuta. Ce ne sono delle altre, continuate a scrivere, perché poi mio fratello se le sta segnando, poi le userà e guadagnerà la SIAE ovviamente sulle vostre battute. Il riposo del guerriero. Le 11:06, continuiamo a parlare di risate, ridere. Oggi la puntata è dedicata a questo, il riposo del guerriero. Sono le 11:06, l'ho detto. Non volevo dire il nome, ho detto l'orario. Vabbè, sono così. Mi fate ridere perché stanno scrivendo Cesare. Sono con Cesare Gallarini, ospite, che è mio fratello, però è comico da oltre 30 anni. Scrive per i comici, ha diretto e dirige tanti comici, per cui insomma hai anche fondato, dicevo, l'Accademia del Comico. E, perché le battute che scrivete sono davvero divertenti. Pensioni, patrimoniali e ICI, la Trinità di Monti. Trinità, ecco, di Monti, ecco, bellissimo. Vabbè. Poi vabbè, qualcuno scrive, Filippo dice, ho visto delle scene in Parlamento davvero comiche, anche se raccapriccianti nel passato, ma anche recentemente al TG. Adesso capisco perché Zellig andava in terza serata, perché era meno comico probabilmente. Assolutamente. Vi ricordo il numero per giocare, le 11:30, ecco il mistero in 24 minuti, 800 24 00 24, e sono sempre 1000 euro per voi. Siamo riusciti a darne 500 la settimana scorsa. Francesca Dragotto, ciao, non potevi mancare. Buongiorno, Duca Larini's Make One. Hai visto? Spot della pubblicità. Allora, buongiorno, buongiorno. Comico da cosa arriva? O cabaret, non lo so da dove vuoi partire tu. Oh, eh? Guarda, dal punto di vista dell'etimologia, questa puntata è veramente un piatto ricco micifisco, perché commedia ha a che fare con il greco antico, l'etimo è controverso, ma ci sono almeno due interpretazioni piuttosto fondate. La prima riconduce la parola a comos, che indicava letteralmente il corteo di chi festeggiava Dioniso, il dio del vino, per cui ci si ubriacava, si andava in giro per la strada e si attaccava a colpi di battute chiunque si incontrasse. Elemento non da poco, durante questo corteo un'enorme statua del dio Fallo veniva portata in processione, si chiamavano falloforie questo tipo di processioni perché servivano a propiziare la fertilità. E questo ci serve per spiegarci come mai spesso l'argomento licenzioso o comunque la battuta a sfondo sessuale faccia parte della comicità. La seconda interpretazione non rimanda a Comos, bensì a Come, che significa villaggio, perché sembra che in origine gli attori della commedia fossero piuttosto disprezzati dagli abitanti della città, un po' snob, e quindi, rinunciando alla città, si recavano presso i villaggi di campagna a mettere in scena le loro performance. Ecco, ci piace di più la prima forse, Cesare, sì, come etimologia. Sì. Tra i filologi più attestata, però appunto. Sì. Ecco, tra l'altro mi viene in mente una cosa, hanno scritto, Cesare, quando sei in tram e ti viene una gag, come te la segni? Tieni in tasca dei pizzini pieno, ecco. Il giorno che mi arresteranno troveranno un sacco di battute sparse. Ci sarà da ridere. Ecco, adesso a proposito di ridere, vorrei farvi ascoltare un pezzo di una canzone. Eccola qua. Mi dispiace di morire, ma son contace di morire, ma mi dispiento di morire, ma son contace di morace, son contire, mi ma dispiento, dispiace consentire, mi ma son tace. Ma son tace, alla fine funziona così. È Petrolini il testo e la canzone, anche se la versione non è quella cantata da Petrolini. Francesca, qui c'è un gioco di parole incredibile, un misto che alla fine non vuol dire niente, ma riesce a dare molto in realtà. È un vero e proprio esempio di virtuosismo linguistico, quando la lingua riesce a comunicare pur non essendo lingua. È un caso di, non voglio dire antilingua, ma di non lingua ottenuta attraverso la segmentazione, il taglio di parole che hanno un senso compiuto e che sono cantate per ben due volte e comunque già prima nel corso della canzone, però pezzi di parola che ricombinati danno vita a parole nuove, parole che sono accettabili dal punto di vista della successione dei suoni, per cui non sono parole che stonano come non italiane, che non hanno significato, morace, contire, dispiento, naturalmente tutto si gioca su quell'effetto di eco, di trascinamento, che fa sì che l'ascoltatore sappia benissimo di cosa si sta parlando, ma ci si ricami sopra declinando non significati che però generano ilarità, generano un sorriso intelligente. Ecco, quindi vedi anche nella canzone, poi tra l'altro insomma Petrolini. Petrolini è fine dicitore. La va spettacolo poi c'è. Cioè. Grazie Francesca, grazie un abbraccio, grazie davvero per le chicche che riesce sempre a darci. Ecco, la va spettacolo. Tutto precisissimo questa, sì, lei fantastico. È straordinaria, ma dicevo, la va spettacolo l'abbiamo un po' perso, lo stiamo recuperando. Ci ha tentato Fiorello adesso con... Sì, l'abbiamo perso, un po' nel DNA comunque c'è. Del comico, questa idea di rapportarsi col pubblico. Adesso abbiamo parlato di Zelig, di televisione, ma il campo di battaglia vero del comico è chiaramente il live, lo spazio, il palcoscenico, quindi la possibilità di giocare con gli spettatori, con il respiro, come dicevo prima, della sala. Ecco, gli spettatori, a proposito, spesso, scusami, una parentesi, sì. Era Gigi Proietti che cantava la canzone di Petrolini e mi era sfuggito, grazie per essere così attenti, gli ascoltatori sono attentissimi. Attentissimi, certo. Bisogna solo essere, grazie. Gli spettatori hanno un po' paura, sì, di voi cabarettisti. Perché sputacchiamo un po'. No, non sputacchiate, ma hanno paura di essere chiamati, perché sì, poi vengono derisi e non è mai divertente essere presi in giro davanti a un pubblico. Perché fate questo? Perché fa ridere. Ma voi fa ridere. No, anche al pubblico. Chiaramente c'è il capro espiatorio, che è lo spettatore che viene preso. Innanzitutto è un modo molto facile, comunque. Comunque tutto sommato, anche se poi è difficile gestirlo bene per poter ottenere una risata e divertire il pubblico. Spesso viene anche utilizzato per scaldare il pubblico, per metterlo un po' in una condizione un po' più di relax. È chiaro che il malcapitato del momento fa un po' da giullare per tutti quanti. Io ho un pezzo, la mia passione per il volo, che tu conosci, quindi sull'aeroplano io prendo uno spettatore e lo metto al mio fianco e assieme facciamo un vero e proprio sketch, senza che lui sappia una battuta, una situazione, però si riesce a creare. Altre volte penso alla magia comica, per esempio. Beh, dove, devo dire dove, che facendo l'illusionista ovviamente lo spettatore è sempre lì pronto a seguirti. Lo spettatore viene utilizzato per calmare la sala o per eccitarla in qualche modo, viene preso in giro per come si veste, per come si comporta, perché arriva tardi, perché dice una battuta o vuole fare una battuta controtempo, perché dorme o perché è esagitato. Quindi per noi sono tutti spunti in quel momento utilizzabili per poter creare una situazione comica. E lo spettatore come si sente? Bene, benissimo, sorride, ride, contento, ma no, ripeto, è sempre un gioco di eleganza, quindi tu puoi veramente, tra virgolette, prendere in giro uno spettatore, ma lui coglie se la tua dietro c'è una cattiveria o c'è invece un ecco, gioco. Ecco, quella non deve esserci mai, deve essere sempre il gioco, ovviamente. Anche se il comico è un personaggio cattivo, perché se noi andassimo ad analizzare ogni battuta, le battute sono cattive, non sono buone. Le battute prendono sempre in giro un qualche cosa, una persona, una situazione sociale, un gruppo. Quindi Chaplin diceva questo, cioè il comico è cattivo, la battuta è cattiva, non è buona. Beh, certo, Raul Cremona dice ai bambini di andare a giocare in autostrada, non credo passa, che sia divertito. Però questa cosa esorcizza e ci fa bene. Chiaro, è vero. Allora, abbiamo aggiornamenti sul traffico, poi cercheremo di capire anche la comicità nel web come viene usata per pubblicizzare, sapete, nel nostro angolo dedicato al marketing non convenzionale. Posa del guerriero. Fabless, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica. Allora, come è stata usata la comicità per far parlare di un prodotto? Punto di domanda. Ma guarda, rimaniamo su una scena comica che è successa all'interno di un aeroplano, sempre. Allora, per la promozione di una compagnia aerea di voli tedesca, la Germanwings, è spuntato un video su YouTube. Ci sono alcune persone dislocate in punti differenti all'interno della cabina passeggeri, che iniziano improvvisamente a dialogare tra loro attraverso dei cartelli. È presente quando magari voli su un volo low cost, quindi alcune persone si possono trovare in posti differenti dell'aeroplano. Si sono sparsi per l'aereo e usano i balloon dei fumetti. Usano i balloon per iniziare a dialogare tra loro, esattamente. Inizia con un cartello, cara dove sei? Esce un altro cartello da dietro, qui. E i bambini? Qui e qui. Ogni volta in posti differenti tra loro. Altro cartello, al diavolo la scelta libera dei posti. Ecco, quindi, per dire che invece in quella compagnia, pur essendo low cost, i posti sono assegnati. Che Esattamente. Poi continua, posso andare al bagno? Dice uno dei bambini. Solamente se è gratis, dice, risponde il padre. Guarda almeno fuori dal finestrino, lì per fare questo è gratis. Altro cartello finale, la prossima volta voliamo con Germanwings. Beh, certo, chiaro. Il bello qual è che comunque questa attività è stata realizzata su un volo della compagnia concorrente. Certo, quindi hanno girato tutto nel sumbolo, ovviamente. Per quanto riguarda i risultati, comunque sono stati molto interessanti, visto che il video, questo di cui ti parlo, che è stato caricato su YouTube, ha superato ampiamente le 200.000 visualizzazioni solamente per quanto riguarda un singolo video, nel senso che poi ne sono stati caricati altri che hanno ottenuto a loro volta un buon numero di visualizzazioni. Ecco, per tornare a prendere un altro solido esempio, in un albergo italiano, dove succedono, ecco, cosa succede di comico all'interno dell'albergo? Ma nulla, questo hotel in provincia di Verona ha voluto in qualche modo far vivere delle esperienze inusuali, se vogliamo coinvolgenti, ai propri clienti, trasformandosi in The Fun Hotel, quindi l'hotel del divertimento. Che è successo che in un periodo determinato dell'anno alcuni personaggi vestiti da, ad esempio, supereroi, Flash o da Diabolic, quindi un ladro, o da agenti segreti, si sono sostituiti, realizzando delle vere e proprie candy camera, ai normali facchini d'albergo o ai normali camerieri, realizzando quindi delle vere e proprie candide nei confronti dei clienti, ovviamente che non si aspettavano una simile attività all'interno di un hotel. Ecco, certo, ma il cliente poi come reagisce? Un po' infastidito, perché dice sono guarda, in un albergo. Vedendo il video sembrano comunque tutte reazioni abbastanza divertite, perché comunque sai, c'è un dramma, uno scrittore irlandese della fine dell'Ottocento, tale George Bernard Shaw, che diceva: un avviso a chi pensa alle pubblicità per gli hotel, io odio sentirmi a casa quando sono in hotel. Che in effetti quindi, è quello che non vuoi, cioè, esattamente l'opposto della filosofia di moltissime catene alberghiere. Grazie Fables, potete leggere tutto su blog guerriglia.it come sempre. A proposito, Cesare, di comicità e aziende, ormai si usa anche questa per motivare. Sì, cosa succede? Sì, sì, si usa, per fortuna succede che le aziende finalmente si stanno un po', come dire, ammorbidendo, sì. Perché chiaramente immaginiamo questi meeting aziendali, 8 ore, 12 ore di grandi conversazioni, parole, slide, parole noiosissime, e finalmente le aziende incominciano a così creare delle situazioni divertenti, un po' come in questo hotel. Quindi per esempio durante la cena aziendale adesso va di gran moda la cosiddetta cena con delitto, quindi questo ispettore che rompe, fermi tutti, e da lì poi iniziamo ad indagare. Oppure i camerieri pazzi sono dei personaggi. Io ho iniziato la mia carriera facendo il cameriere pazzo, quindi sono due camerieri, tre a seconda dei tavoli, delle persone che si sostituiscono ai camerieri veri e vanno a creare tutta una serie di gag con il pubblico, con le persone che sono a cena. E così ci sono tantissime altre possibilità. Una formula alla Maurizio Costanzo Show, quindi una sorta di talk show live, viene proposto nelle aziende per i loro meeting, quindi non più l'oratore che racconta e poi arriva l'altro, ecco, ma una sorta di... E invece far lavorare le persone dell'azienda, a farli diventare comici per un momento? Sì, il team building, queste cose qua si può fare, si lavora sul cinema sì. Comico, si fanno degli spot per esempio, e normalmente sono estremamente divertenti, perché possono anche prendere in giro la loro azienda, quindi vederla sotto un altro aspetto. Sì. Si montano dei veri e propri spettacoli teatrali, alcuni anche a scopo sociale, quindi viene creato un piccolo spettacolo circense, comico, cabarettistico, e poi viene in qualche modo omaggiato, venduto tra virgolette ad un ente onlus, quindi il ricavato poi va in beneficenza. Ecco, pensi che sia un percorso in crescita questo? Sì, assolutamente. Sì. Io credo che le aziende stiano veramente cominciando a valutare questa possibilità, che tanto il lavoro lo devo fare come Shakespeare diceva, quando il lavoro va fatto tanto vale farlo subito, e aggiungiamo anche con il sorriso ancora meglio. Assolutamente. Quindi, sì, sono d'accordo con te. Grazie Cesare, ma tanto tu resti qua, e adesso abbiamo lo spazio dedicato al mondo dei videogiochi, e anzi, se avete qualche curiosità o richiesta, l'indirizzo è videogiochi@radio24.it. Noi poi continueremo a ridere anche nel corso della puntata, anche durante il gioco Il Mistero in 24 minuti, ma adesso parliamo di videogiochi. Video game. Video game. Tutte le guerre si basano sull'inganno. Oggi parliamo di Call of Duty Modern Warfare 3, che è l'ottavo capitolo della saga Call of Duty. Ovviamente si tratta di uno sparatutto in prima persona che ha già stabilito tutti i record possibili. Uno fra tutti, quest'ultimo episodio ha venduto oltre 6 milioni e mezzo di copie soltanto negli Stati Uniti e Gran Bretagna nelle prime 24 ore dal suo lancio. Per anni l'ipocrisia dell'Occidente ha trasformato il mondo in un teatro di guerra. I corrotti parlano, mentre i nostri figli e fratelli versano il loro sangue. Ma l'inganno è un'arma a doppio taglio. Le autorità russe affermano che l'attacco è stato orchestrato da un agente della CIA di nome Joseph Allen. Più grossa è la bugia, più la gente ci crederà. La storia riprende dalle vicende dell'episodio precedente e l'inizio della campagna è già spettacolare e decisamente immersivo. I russi stanno attaccando New York e bisogna difendersi. Rapporto su New York: hanno neutralizzato il nostro supporto aereo. Se continuano così, è una battaglia persa. Non possiamo perdere New York. Entriamo nella borsa, muoviamoci! Di questi tempi, fra l'altro, è quasi liberatorio sparare all'interno della borsa della Grande Mela, spaccando monitor e computer. Una storia molto interessante, ben doppiata e capace di affascinare anche chi si limiterà a guardare gli altri giocare. Le ambientazioni sono molte. Praga, Londra, Berlino, Parigi, New York, la Russia e gli Emirati Arabi sono teatro di scontri da vivere anche, anzi direi soprattutto, in multiplayer, anche perché la campagna in giocatore singolo è piuttosto breve. Call of Duty Modern Warfare 3, infatti, è assolutamente da giocare in compagnia di amici collegati in rete che potranno scontrarsi su 16 mappe molto ben costruite. Ma non ci si limiterà solo a sparare ai nemici per portare la propria squadra a vincere, ma ci si imbatterà in azioni da compiere affinché si possano acquisire punti per migliorare le capacità e l'arsenale del proprio personaggio. Da segnalare anche le missioni speciali da giocare in cooperativa, con ordini di nemici da sconfiggere che non faranno che aumentare il vostro divertimento, la vostra concentrazione e soprattutto vi aiuteranno a liberarvi dallo stress. Call of Duty Modern Warfare 3, rigorosamente consigliato a un pubblico maggiorenne, è disponibile per PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Da non perdere. Basta la volontà di un solo uomo. Ecco, quindi, se avete qualche curiosità o richiesta, videogiochi, @radio24.it e alle 11.25 è arrivato. Il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno, buona giornata a tutti. Eccoci qua, ora siamo sia io sia l'altro Gallarini, ovvero Cesare. Oggi abbiamo parlato di comicità. Tu che cosa ci racconti invece? Ma che ci sono molti ristoranti che fanno ridere. Ma non nel senso che vorresti, però, ovviamente. No, no, non sicuramente fanno ridere, perché sicuramente magari sbagliano un po' tutto, magari c'è, che ne so, sbagliano il bicchiere, oppure sul menù c'è scritto una cosa e te ne portano un'altra, oppure qualcuno che alza la cloche e sotto non c'è niente perché se lo sono dimenticato in cucina. Ti sto raccontando tutte cose che mi sono capitate, anche i risultati anche in ristoranti di un certo livello. No, senti, alzare la cloche e non avere dentro niente io non l'ho mai visto, cioè io ho visto cadere, magari scivolare, no, dal piatto, questo sì, dopo l'alzata della cloche. Ti racconto perché è troppo divertente. Era un ristorante francese 2 stelle addirittura. Eccolo là. E eravamo in 6 al tavolo e sono arrivati i camerieri con i 6 piatti e tutti, sai, si guardano negli occhi. Sì, perché devono alzata nello stesso istante, certo. Pronti via, prum, hanno alzato e c'era un piatto che non c'era niente dentro perché l'avevo dimenticato in cucina. Vuoto. Non ti dico l'ilarità. Cioè, siete scoppiati a ridere almeno. Siamo scoppiati tutti a ridere, ecco. Tu mi hai chiesto la sola comicità e sicuramente succedono molte cose, oppure magari quando vedi un sommelier che sta lì per mezz'ora, ti apre, poi ti guarda con la candela e poi ti versa lentamente il vino e il vino sa di tappo. E anche questo è un fatto che ti lascia un po' interdetto, magari lui non se n'è accorto e quindi anche questo ti fa ridere, perché non è che ti puoi arrabbiare di fronte a delle cose di questo genere. Certo, quindi, assolutamente no. Senti, tu che hai, da pochissimo è appunto uscita la guida ai ristoranti curata da te, tu trovi che la qualità, ma proprio l'attenzione, ecco, diciamo così, verso il servizio, verso tutto quello che è il contorno, come sia? Cioè, ci sia attenzione di più di una volta, meno, si cura di più magari la cucina e meno le piccole, tra virgolette, le piccole cose? Secondo me l'attenzione nei dettagli è molto calata, ma ti spiego anche perché. Ormai c'è una corsa a fare lo chef rockstar da parte anche dei ragazzi, dei giovani, quindi la domanda di lavoro è tutta rovesciata oggi verso la cucina, anche perché i modelli imperanti, quelli che vengono trasmessi mediaticamente, quelli che vediamo tutti i giorni, sono di uno chef che come gira mondo, di uno chef arrivato, di uno chef del jet set, e quindi è un modello che sta, secondo me, molto imperversando tra i ragazzi come professione da fare e poi una volta che hanno finito di studiare, o magari anche giovani che vogliono intraprendere una professione. E oggi nessuno vuole più fare il maître, cioè non trovi più il maître. Mi dicono tantissimi amici ristoratori che la difficoltà oggi straordinaria è quella di trovare l'uomo di sala, cioè diciamo il direttore di sala, oppure anche se il locale è piccolo, chi sa gestire la sala. è quasi impossibile. Ormai ecco, non si trovano più, perché tutti coloro che vogliono fare quel mestiere vogliono andare in cucina. Ecco, ma pensi allora che sia venuto un po' quel meccanismo, come oggi discutevamo, del comico, no? Che tutti vogliono fare il comico perché fare il comico significa automaticamente, secondo la testa, diventare famosi e andare a zeriche in televisione. Ricchi, famosi e belli. Esatto, e quindi è uguale ormai per gli chef, cioè diventare chef quindi significa diventare stellati, bravi, ricchi e famosi, credo. Sì, cioè, secondo me ormai il concetto è questo che viene trasmesso soprattutto dalla televisione. E se tu ci fai caso, io ho paragonato ultimamente X Factor a Masterchef, siamo sullo stesso livello, cioè il giovane un tempo, ma ancora oggi cosa vuol fare? Vuol fare il cantante, il calciatore e oggi lo chef, un tempo invece il cuoco era bistrattato, nessuno lo voleva fare. Per quello che io ho fatto alla presentazione della mia guida, un dibattito che era basta con gli chef, torniamo ai cuochi, proprio per questo, perché così come c'è una grande selezione per fare il cantante, una grande selezione anche per fare il calciatore, ci sarà una grande selezione per fare lo chef e quindi molti ragazzi rimarranno molto delusi. Io porto sempre l'esempio che ogni anno all'inizio del campionato di calcio ci sono una quarantina di giocatori che non hanno più contratto, che si allenano e ora la federazione o la Lega, non mi ricordo, gli dà a disposizione un allenatore dei campi. Ecco, secondo me quello deve essere un esempio da prendere. Perché? Perché succederà anche con gli chef. Se tutti vogliono fare gli chef, nessuno poi vuole stare in sala, nessuno poi vuole fare anche il cameriere, cioè alla fine sicuramente mancheranno delle cose che sono fondamentali per il funzionamento di un locale. Certo, grazie Davide, speriamo che il tuo prossimo ristorante ti faccia ridere, ma in un altro modo, semplicemente no, perché mi hai dato una grande idea, siccome io ogni anno metto dei simboli nuovi. Sì, esatto, infatti te lo stavo chiedendo di aggiungere probabilmente il ristorante comico potrebbe essere sicuramente un nuovo simbolo, mi fa ridere, ecco. Bravo, grazie. E ciao. Poi segni da Stefano, grazie, ciao. Davide, buona giornata, ciao. Il riposo del guerriero. 11:36 minuti, e prima di partire con il gioco, con il mistero in 24 minuti, vi ricordo il numero 800 24 00 24. C'è una domanda arrivata da un ascoltatore che ti chiede a te, sì. Allora, perché la comicità di oggi è purtroppo, a mio parere, così legata alla facile e fin troppo scontata volgarità? Poi va avanti la domanda, ma questa è la chiave. Perché si è così spesso volgari? Perché è facile e scontato. Perché è facile e scontato. Certo, è il modo immediato per poter in qualche modo far scaturire la risata, insomma. E la domanda prosegue: nell'accademia o quando scrivi le battute usi la volgarità o assolutamente no? Assolutamente sì, in questo senso. Prima abbiamo sentito che nell'antica Grecia si usava un fallo come sia propiziatorio ma anche per far ridere. I comici dell'arte comunque usavano lazzi e gag assolutamente pesantissime e volgari. Sì, voglio ricordare che c'era un numero di varietà, adesso non ricordo chi lo faceva, e giocato con i peti e suonava con i peti veramente. Certo. Oggi si fa con il telefonino. Tognazzi, che Petomane, fu un film giocato. Questo magari ci fa raccapricciare un po'. Quando è gratuita, quando non ha una collocazione, quando non ha un senso, sono d'accordo che non va utilizzata. Alcuni comici invece lo usano in modo estremamente gratuito, però la volgarità è un modo per far ridere, certo, per cui ecco, non bisogna sempre contestualizzare, è inutile, molte volte è usata la parolaccia per rafforzare una battuta debole, allora se aggiungendo l'organo certo. Da forza la però battuta, questa non è comicità. Però non è comicità, non serve, la battuta se è forte è forte anche chiaro. Senza l'intercalare volgare. Ecco, i comici che usano la volgarità per forza in modo gratuito vuol dire che non hanno niente da dire, vuol dire che si sentono deboli in quel momento sul palco, quindi devi lanciare le uova. Lanciare uova o insomma si può fare uno spettacolo senza assolutamente dire una parolaccia e tanto più anche il sottinteso fa molto ridere, è molto più bello intravedere una situazione che tac te la do. Sai che io seguo questa linea che a me piace in modo particolare. Andiamo avanti, scattano i 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, quindi libri cartacei ed elettronici, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La risposta, una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Il numero 800240024. Ed ecco il primo indizio. Primo indizio, sono in matte bianco di Who Side Are You On, tradotto in italiano, mio fratello che sa benissimo, sì, Who Side Are You On, quindi ma quella cosa lì da che parte sta? Ecco, esatto, volevo dirlo anch'io ma poi non sapevo da che allora, parte. Allora cominciamo c'era. Con Carlo da Pavia. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno, niente, purtroppo non ho assolutamente alcuna idea. Quindi ci vuole già un secondo indizio? Direi proprio di sì. E allora andiamo immediatamente a 500 euro. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Allora Carlo, eccolo qui il secondo indizio, immagino che tu la canzone l'abbia riconosciuta. Me sì, l'ho conosciuta, me la ricordo benissimo, però non mi è servita a molto. I Giardini di Marzo, Lucio Battisti. Allegrissima. Non è allegra, ma... vabbè. No, esatto. Però dice al 21 del mese i nostri storie erano già finiti. Era una realtà del 1969, se è la canzone. Vedi come era avanti già Battisti. Carlo, allora, cosa vogliamo fare? Ma io niente, un minimo di idea che mi è venuta potrei dire l'abolizione del vitalizio ai parlamentari, ma dalla prossima legislatura. Ma dai, vedi, mai subito, sempre dopo. Grazie, ciao. Sì. Ciao Carlo, grazie. Non ho capito se fosse una speranza o la risposta alla... Non lo so. Vabbè. Serena, da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, solo a nominarti già uno sorride, vedi? Serena. Oh, che bello. Cosa allora, io resto in tema un po' con la puntata, sì? E dico la prima di Mario Monti in Europa, andare a fondo, così. La prima, scusa, non ho capito. La gaffa di Mario Monti. Ah, dell'andare a fondo. Hai sì, visto? Dell'andare sì. a fondo. Andremo sempre più a fondo. Poi ha capito che ha il doppio senso. Va bene. Grazie, Serena. Va ciao. Bene, grazie, ciao. Tra pochissimo, Roberto da Milano, 800 24 0024. Gli aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Roberta da Milano, buongiorno. Pronto, ciao. Ciao Roberta, allora due indizi sono già andati e anche due risposte, cosa vuoi fare? Mi do la risposta perché in realtà speravo di poter tenere con la mia prima idea coerente con quella che era il primo brano. Quindi? Io parlerei di quell'esponente del PD che si chiama Farina, che ha fatto una proposta che alla dirigenza non è stata... molto dalla dirigenza non è stata molto apprezzata, per cui adesso non penso che si passi dei buoni minuti, però quindi dice da quale parte stai, eccola esatto, qui, vabbè esatto. Grazie Roberta, buona giornata. Ciao, grazie a voi, ciao, tanto. Buongiorno. Prima abbiamo avuto Serena, sì, adesso abbiamo Letizia. Ah, vedi Letizia, che bello. Serena. Ciao Letizia, buongiorno. Buongiorno. Allora, dacci tu una... Io pensavo a un personaggio, ma dopo ho pensato a una cosa, può essere anche una cosa. Può essere una cosa, certo, una cosa non è un bicchiere, sì, però no, adesso no, no, sì. La crisi dell'euro. La crisi dell'euro. Perché c'è la crisi dell'euro? C'è la crisi dell'euro. No, io pensavo anche alla Merkel prima. No, è una battuta ovviamente, oggi siamo in tema. Grazie Letizia, ciao, prego. Buona giornata. Luciana da Milano, buongiorno. Buongiorno, buona giornata. Ecco, una cosa che non ho detto, la risposta potrebbe già essere stata data, però fino allo scoccare del 24esimo minuto non la si potrà sapere. Luciana. Speriamo di no, che sia la mia, quella giusta. Chi lo sa? Dunque, secondo me mi ha spiazzata. E quindi non è quella giusta. Rimango col primo, scusa. Il nuovo CD piccolino di Mina, in quanto bianco, ha il volto bianco sulla copertina e mi sono un po'... È un extraterrestre in realtà, è il volto di Mina in piccolino. Va bene, ascoltate Matrioska, credo che sia una canzone... Solo lei può cantare una cosa del genere. Grazie Luciana, ciao. Grazie, buona giornata. Buona domenica. Nell'ultimo album di Mina, appunto piccolina, c'è questa canzone che è scritta una matrioska e anche la voce è come una matrioska, quindi parte dal basso e si allarga sempre, si incastra, e credo che solo lei riesca. Credo che siano 3 ottave di salto pazzesco alla sua età, poi davvero ancora complimenti. Luciano da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io, Luciano, ho distratto un attimo, è già stato detto il fatto di Stefano Fassina che si è detto contrario, insomma, è stato chiesto di è stata chiesta l'espulsione del responsabile economico del PD, oppure no? Più o meno, diciamo, personaggio o argomento, però non vuoi nessun altro indizio? No. Perché in realtà sì, l'hanno detto prima. Ah, ma no, se l'hanno detto chiediamo l'indizio. Ok, sì. Allora scendiamo e andiamo a 300 euro. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. E adesso so cosa perdo, non so immaginare che cosa mi aspetta domani. A cosa serve vagare? Di amore in amore, se tutto si ripete uguale. Eccolo qua il terzo indizio, Luciano. Scusa, prima ero un po' in defaillance perché l'ascoltatrice Roberta aveva detto Farina, ma intendeva sicuramente dire Fassina, perché poi ci ha raccontato il fatto, quindi ho capito. Ecco perché mi hai colto un po' così. Quindi comunque era stato detto, anche se aveva sbagliato il cognome. E questo è il terzo indizio, e il titolo della canzone è Magneti e lui è Mario Venuti. Io ero convinto di quello che già ti ho detto. Ma è sbagliato, guarda, te lo dico anche. Ti dico anche che nessuno ha dato la giusta risposta. Guarda, non ho la minima idea. Direi la ripresa, visto che state ridendo, la ripresa di Zelig in TV a breve, credo. Grazie Luciano, buona domenica, ciao. No, neanche questa risposta giusta. Non penso. Gioele, dalla provincia di Cuneo. Sì, ciao. Ciao Gioele. Allora, cosa facciamo? Per me si sta parlando della... Aspetta, ascoltiamo i 3 indizi, va? I giardini di marzo si vestono di nuovi colori. Magneti invisibili e perfetti. Who Side Are You On, Matt Bianco, I Giardini di Marzo, Lucio Battisti, Magneti, Mario Venuti. Allora, Gioele. Sì, l'idea che mi ero fatto era appunto che si stesse parlando della Preside Coraggio, Eugenia Carfora, che era stata contattata dal ministro Profumo in merito ai problemi che aveva denunciato. Ecco. Non posso dire niente. Ciao Gioele, grazie. Ciao, buona domenica. Giorgio da Pavia, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Ciao Giorgio. Allora, cosa facciamo? Io sono un po' in alto mare. Ma no, ma è lì, la risposta è lì. Vuoi che te la dia? Rimango fedele al primo indizio che mi aveva portato verso... Però so che probabilmente non ci sarebbe. Io provo a dire comunque che è un ministro Profumo, un ministro di istruzione, ecco. Da quale parte stai? Il fatto che poi abbia dovuto scrivere una missiva al... alla facoltà. Ma il terzo indizio, Magneti, Mario Venuti, non lo so. Ciao Giorgio, grazie. Grazie, che rabbia. Voglio dare sti soldi a qualcuno, a Francesca da Biella, per esempio. Ma li vorrei volentieri. Guarda, sono 300 euro, te li do già così, a scatola chiusa. Non posso. Sulla fiducia. Allora, dimmi, Francesca. Allora, senti, io ho fatto delle ricerche, dico la verità, siamo in due, veramente. Io e mia figlia ci stiamo ricercando. Non è così difficile da dover ricercare, è lì sul piatto. Lo so. Lei è venuto, ha trovato che Ichino del PD aveva delle, come posso dire, delle riserve su alcune proposte che aveva fatto Monti per quanto riguarda la sua nuova manovra, eccetera, eccetera. Francesca, sti 300 euro devo tenermeli io qua. Di nuovo? Oh no, che tristezza. Però ci sarebbero stati anche altri indizi, eh? Vabbè, mannaggia. 800 24 00 24. Ciao Francesca, buona domenica. Cari, ciao. Donato da Bergamo. Donato, hai la radio alta e la tua voce bassa. Aspetta un po'. Bisogna invertire. Dovresti spegnere la radio, Donato, per cortesia. Addirittura, Donato. Pronto? Adesso ti sento. Donato, abbiamo un minuto per la tua risposta. Ma niente, io a me veniva in mente ancora Monti. Chi? Monti. Mario Monti, ma dai, ma guarda che ti porti a casa 300 euro. Eccolo qua, lo sapevo. Non era difficile, usa Are You On, più che altro l'indizio era nei mat bianco, perché lui aveva scritto il libro bianco per il completamento della moneta unica europea. Poi il giorno di marzo, perché è nato il 19 marzo del 43. Magneti di Mario Venuti era un doppio indizio. Mario perché si chiama Mario Monti e Magneti perché aveva detto dell'ex presidente del Consiglio, aveva criticato il suo magnetismo comunicativo, e questa fu la critica che gli mosse, e quindi il terzo indizio anche, è stato anche doppio. Grazie Donato, per te 300 euro. Grazie mille. A te, non poteva essere diversamente, uno che si chiama Donato. Sembrava contento. Esatto. Grazie mille. Meno male, me l'hai vinto di più. 300 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Grazie a Cesare Gallarini per essere stato con noi questa puntata. Grazie a voi ovviamente. A Giorgio De Luca redazione, l'assistenza di Margherita Aina, Paolo Correoni in regia. Noi ci sentiamo domenica prossima alle 10 con il riposo del guerriero. Buona nuova settimana da Stefano Gallarini.